Bruciatore di libri di Alessandra Tedesco. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Su questa canzone si svolge una delle scene clou di Io che amo solo te, un film tratto dall'omonimo romanzo veramente di grande successo di Luca Bianchini, che era uscito nel 2013. Bianchini è stato spesso ospite del Cacciatore di Libri. Vi ricordo così alcuni dei suoi romanzi: Se domani sarà bel tempo, Siamo solo amici, Dimmi che credi al destino. Ora i personaggi di Io che amo solo te tornano nel romanzo Baci da Polignano, pubblicato anche questo da Mondadori. Dunque siamo, come sempre, a Polignano, questa cittadina vicino Bari, anche se diciamo ci sono un paio di trasferte a Budapest e a Milano, però insomma Polignano rimane il cuore di questo romanzo. E ci sono appunto gli stessi personaggi, e li ricordo rapidamente. C'è Ninella, questa donna appassionata, volitiva, ma anche con un grandissimo senso di lealtà, che ormai insomma ha superato da un po' i 50. Poi ci sono le figlie Chiara e Nancy, che ormai è diventata quasi una piccola star del web. Chiara, lo ricordiamo, ha sposato Damiano, adesso è diventata anche wedding planner. Damiano a sua volta è il figlio di Don Mimì, che era l'amore di gioventù di Ninella. E poi c'è ancora il fratello di Damiano, Orlando, che gay, aveva fatto il famosissimo coming out durante appunto il matrimonio del fratello. Allora Luca, tu sei tornato appunto sugli stessi personaggi di Io che amo solo te. In una breve postfazione dici che spesso i sequel sono deludenti. E allora perché tu hai voluto riprendere questi tuoi personaggi così veramente amati dal grande pubblico? Beh, innanzitutto perché io sono fondamentalmente una persona contraddittoria, per cui mi piace dire una cosa e farne un'altra. No, tutto è nato per caso. Ero in Puglia e questo barista, un giovane barista, mi dice a un certo punto: ma come stanno Ninella e Don Mimì? Ma questo tipo un po' di mesi fa. E io ho detto: come stanno, in che senso? Beh, come dire, lei li conosce, no? E ho pensato: ma pensa a sto ragazzo, un libro di 7 anni fa, che mi chiede come stanno i protagonisti di un romanzo. È stata una cosa così strana, c'era un cielo così bello, ho detto: vabbè, sai cosa c'è? Azzardiamo, facciamo questo azzardo, no? Proviamo a raccontare che cosa è successo un po' di anni dopo. Mi è venuta un'idea, che non ti posso dire per non svelare come finisce. È stato come ritornare a casa da dei parenti che non vedi da tanto, anzi da degli amici speciali che tutti noi abbiamo. Ci sono delle persone che noi possiamo non sentire per anni, non vedere, e che quando li rivedi è un attimo e torna tutto magicamente come prima. Ecco, io con questi personaggi ho questo rapporto un po' viscerale, un po' confidenziale e un po' conflittuale, perché poi insomma non è che sono proprio dei personaggi facili. Però poi il grande amore, l'amore a 60 anni, adesso che ne ho compiuti 50, mi sembrava il momento giusto per provare a capire come sarà a 60 anni. E devo dire, sono andato anche a feste di sessantenni per capire, ecco, e ti dico che sono andato via prima io di loro, in Puglia succede così, quindi ecco, la Puglia è sempre sorprendente. E la Puglia è rimasta veramente sempre nel tuo cuore. Io devo dire che ti ho visto all'opera proprio a Polignano, e lì sei veramente amatissimo, devo dire un po' in tutta Italia, ma lì ormai si è creato proprio un rapporto strettissimo. Infatti nel tuo romanzo, nei tuoi romanzi ambientati a Polignano, tu utilizzi anche i modi di dire, le frasi fatte, le espressioni tipiche che si usano a Polignano, in provincia di Bari in genere. Insomma, sei diventato ormai un polignanese doc. Beh, ci provo, anche se in realtà adesso ho iniziato a capire, come i bambini capisco abbastanza il dialetto anche stretto, riesco a parlare poco, ma ho sempre dei consulenti, cioè io sono proprio un secchione, per cui se devo scrivere un'espressione ho due polignanesi cui do il libro prima di darlo alla Mondadori, io lo do ai polignanesi, perché non puoi, se tu sbagli la ricetta del panzerotto o dice capito fatto mentre si dice un'altra frase, se sbagli a usare seplaruch, che poi sono 4 cose che io uso, beh, lì rischi veramente, non il linciaggio, però non puoi fare brutta figura, no? Io lo capisco, io vivo a Torino, c'è una piazza che noi chiamiamo Piazza Carlina. Se uno non di Torino la chiama Piazza Carlo Emanuele II, io capisco che non è di Torino e non credo più alla storia. Invece è fondamentale che tu, lettore, riesca a credere alla storia, e il complimento più bello che mi fanno è: ma sembri pugliese. Invece no, sono solo un secchione. Io posso testimoniare da persona nata a Bari perché effettivamente tutto torna nella lingua, nei modi di dire, ma anche nei comportamenti, nei modi di fare delle persone. Beh, i comportamenti e i modi di fare invece li ho appresi sulla mia pelle, perché frequentandoli tanto, prendendo due taglie della giacca e dei pantaloni, e mangia, assaggia l'antipastino, e ti faccio una cosa, ti preparo e non avvisi, e se me lo dicevi, cioè ormai io li conosco così bene che mi posso anche permettere, non ti dico di prenderli in giro, ma di ridere un po' con ironia, e i pugliesi in questo hanno un senso dell'autoironia che è molto bello. Allora veniamo un po' a, non dico alla trama perché non vogliamo svelare troppo, anche se non si tratta di un giallo, però questo lo possiamo dire perché si capisce dalle prime pagine del romanzo. Ninella si trova a vivere una storia d'amore con un giovane architetto milanese, Carlo, è più giovane di lei di circa 20 anni. Insomma, sta, come dire, vivendo una nuova primavera, Ninella. Eh sì, ma Ninella è una bellissima donna, e io ho scoperto che un sacco di miei amici, anche di ragazzi più giovani, amano le ragazze più grandi, le chiamo così, e quindi ho pensato che fosse anche interessante. Poi io amo provocare, mi diverto, allora poi mi piacciono anche un po' i cliché, ma che hanno qualcosa che non ti aspetti, per cui lui è proprio milanese dell'Inter, ha tatuato Amala sull'avambraccio, però è uno che poi non è solo un seduttore, ma anche un galantuomo. Uomo è uno che sa stare al suo posto, uno che la lascia andare, è uno che non ha paura del corpo che cambia, perché le dice che quello che gli interessa è quello che ha dentro la testa, e lo pensa veramente, e questa è una bella sfida. E poi Ninella, cioè, non è che può, perché Don Mimì non lascia la moglie stare lì ad aspettare tutta la vita, a un certo punto la vita va avanti, anche se poi succede sempre qualcosa, sia in Puglia. Succede sempre qualcosa, però insomma anche qui succede nelle prime pagine, si sa che fra Don Mimì e Matilde non va benissimo, nel senso che Matilde ha iniziato una relazione con il tuttofare della famiglia Scagliusi, tale Pasqualino che lei definisce sette bellezze. Devo dire che la descrizione di Matilde mi fa sempre ridere, tu a un certo punto la definisci donna ossessionata dai soprammobili e dagli elettrodomestici di nuova generazione, mentre si sta separando, diciamo così, almeno momentaneamente, così pare, da Don Mimì, lei dice con fare piuttosto imperioso: il bimbi resta con me. Insomma, veramente Matilde è l'incarnazione effettivamente di un certo tipo di donna, molto austera, rigida, così, della provincia italiana. Sì, e poi questo robottino che tu hai citato è una cosa che mi fa talmente ridere, perché è una cosa che scatena dibattiti. Cioè, io lo cito, ma a me non, lo cito narrativamente, non mi interessa, non ce l'ho, quindi non lo voglio neanche in regalo. Ma guai, cioè, se tu provi ad avventurarti su quello, si scatena. E quindi ogni volta che io parlo di questo in Puglia per ridere, si finisce sempre a discutere, perché ci sono i due partiti, chi dice che chi usa il bimbi sa cucinare e chi dice di no. Ecco, e su questo, però, è fondamentalmente un simbolo di status, quindi lei ce l'ha e lo vuole sempre di nuova generazione, tant'è che la bambina dice: il nostro sa anche friggere o qualcosa, fa anche risotto. Che so che è una roba tipo l'upgrade, pensa a te come stiamo messi. No, però io devo dire, il robottino ce l'ho di quella marca lì, ed effettivamente ti confermo che fa anche i risotti, ed effettivamente soprattutto in molte cittadine del sud Italia, ma credo anche del nord, è diventato, come dire, tu dicevi uno status symbol, ma comunque sicuramente un argomento di conversazione, mettiamola così. Ma scherzi? Tu stessa adesso ne hai parlato, che non è da te, che sei una giornalista sempre che sta sulla trama, la letteratura. Ma che cucina? Non ce l'hai fatta, cucina? Non ce l'hai fatta, e questo è incredibile. Senti, naturalmente parlando poi di Polignano emerge fuori anche l'ambiente del piccolo centro, quindi insomma i pettegolezzi, la signora Labbate soprattutto, insomma a te sembra veramente piacere tanto l'ambiente della provincia italiana, io ho la sensazione da lettrice che ti piace un po' sfruculiare quelle cose lì, è così? Beh, allora tu conta che mio padre è nato in un piccolo paese che si chiama Trequande, provincia di Siena, di 600 abitanti, e io ho trascorso mesi della mia vita in vacanza da piccolo lì ancora, cioè tu non hai il tempo di arrivare, che dalle persiane aperte in piazza già sanno che tu ci sei, cioè è tutta l'Italia, è così, l'Italia dei piccoli paesi, per cui sì, io poi amo un po' spettegolare, ma con il tempo sono cambiato, perché, e poi secondo me questa quarantena ci ha fatto capire quanto è importante salutare dalla finestra, perché è stata l'unica finestra che avevamo con il mondo, E quindi ho iniziato, ad esempio, a Torino, che è un posto molto diverso da Polignano, a salutare i miei vicini di casa, perché non ci salutavamo tanto dal balcone. E questa cosa mi piace, trovo che sia ritornare un po' all'umanità spicciola, no? Dal dove stai andando, cosa fai, che a volte dà fastidio, no? Se, soprattutto chi vive lì. Ma io che vivo in città, ogni tanto torno nel paese, mi piace un po' questa cosa che ti chiedono quando sei arrivato, quando vai via e quando ci vediamo. È tutta una prenotazione. Io quando arrivo a Polignano devo avere l'agenda già decisa, perché sennò sono placcato. Cioè non riesco a dire, io non riesco mai a dire no, per cui non so gestire tutti i pranzi, le cene, i caffè. A volte mi prendo 6 caffè al giorno, ma non si può. E immagino che prenderai anche 6 chili, perché ti posso assicurare che quando si sta in Puglia non si può restare magri, mettiamola così. No, 2 chili a settimana, io ho calcolato. Ecco, 2 chili a settimana. Hai citato questo periodo un po' particolare che tutti stiamo vivendo, inevitabilmente le presentazioni dei libri sono sospese, tu farai una sorta di tour virtuale appunto per promuovere questo romanzo. Quanto ti sta mancando il rapporto con il pubblico? Tu che, insomma, ormai ti conosco veramente da tanti anni, sei una persona molto, come dire, anche fisica, che ti piace incontrare i lettori, parlare con loro, chiacchierare, avere anche il loro punto di vista sulle cose che fai. Ma guarda, alla fine la cosa bella è che noi italiani in questo ci ingegniamo sempre, per cui già solo le cose virtuali, i video. Ad esempio c'è una libreria piccola indipendente vicino a casa mia che non frequentavo tanto perché c'erano, vabbè, ha cambiato proprietaria, questa mi ha citofonato, adesso io le vado a firmare i libri lì e la gente va lì, una che si doveva sposare lo regala alle amiche delle nozze, io mando il video messaggio in dedica. Cioè, alla fine ci stiamo ingegnando, mi mancano, ma non abbiamo tante alternative e sarebbe stato più grave per me non uscire con il libro, che per me è la presenza più importante che io posso dare, perché quello è. Poi sulla presenza fisica recupereremo, ci sono un po' di mezzi, però alla fine il rapporto che io voglio instaurare con i miei lettori è quello, quindi è più importante. È ovvio che mi mancano. L'unica cosa che un po' ci consola noi scrittori è che non abbiamo mai avuto grossi assembramenti, quindi magari siamo meno penalizzati. E quindi si inizia così, dai, un po' torniamo un po' all'Italia degli anni 50, con però il cellulare e il wifi. Senti, toglimi una curiosità veramente flash. Nel romanzo a un certo punto dici che Don Mimì era finito in copertina di Trullo Magazine. Esiste veramente Trullo Magazine? Oddio, non lo so, credo di... No, io l'ho inventato, però pensa se c'è. E poi mi fanno, sì, io l'ho inventato. No, non lo so se c'è, però io Trullo Magazine lo amo, l'avrei comprato subito. È una delle trovate veramente divertenti di questo romanzo, che io ho trovato ancora veramente piacevolissimo. Anch'io in genere non amo i sequel, ma devo dire mi sono appassionata ancora alle vicende di Ninella, Don Mimì, Chiara, Damiano, Orlando e tutti gli altri. Grazie allora a Luca Bianchini, ora in libreria con Baci da Polignano, pubblicato da Mondadori. Grazie Luca. Grazie a te e a tutti voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Stuzzi è conosciuto soprattutto per i suoi gialli, anzi, come preferisce chiamarli lui, romanzi con delitto, con protagonista il commissario, poi diventato vicequestore, Norberto Melis. Mattuzzi è uno scrittore poliedrico. Fra l'altro vi ricordo che Anstuzzi è il nome di un personaggio di L'uomo senza qualità di Musil ed è lo pseudonimo di Adriano Bon. Ora Tuzzi è in libreria con un romanzo decisamente letterario, Nessuno rivede Itaca, pubblicato da Bollati Boringhieri. È un romanzo che ha molti riferimenti letterari e culturali in genere, insomma è un romanzo colto, una scrittura curata e sofisticata. Racconta la storia di Tommaso, musicista cinquantenne, che alla morte di Massimo, scrittore amico di suo padre, riceve una chiavetta USB con alcuni suoi scritti. Il romanzo dà dunque voce ad entrambi i personaggi, Tommaso e Massimo, e le mette a confronto, quasi in una sorta di dialogo a distanza, su diversi temi, su musica, letteratura e amore. Allora Tuzzi, dicevamo che questo è un romanzo letterario, alto, potremmo definirlo così. A un certo punto il personaggio di Massimo, che in vita appunto era uno scrittore, dice: da sempre mi sento votato a una scrittura che trova lettori proprio perché non li cerca. E poi più avanti, ogni pagina di un romanzo di successo deve essere ordinariamente prevedibile. Questa di Massimo è anche la sua visione della letteratura. Forse con un linguaggio meno bombastico di quello di Massimo e meno estremo. Sì, anche per me la letteratura vale nella misura in cui testimonia insoddisfazione e dubbi, non nella misura in cui suppone di distribuire quelli che Furio Iesi definiva, parlando dei romanzi di Liala, feticci che preservano dalla fatica di pensare. Sono anche convinto che per ogni vero scrittore ogni singolo romanzo è fondamento di una alleanza e fondamento di una creazione. Fondamento esteriore dell'alleanza fra l'io che scrive e la sua idea platonica di lettore. Fondamento interiore della creazione stessa. Io scrivo per analizzare me stesso e la vita e il mondo in funzione del lettore. A questo punto lei mi chiederà, ma qual è allora il suo lettore ideale? Vero che me lo chiede? Glielo chiedo assolutamente, anche perché abbiamo fatto una premessa in cui abbiamo specificato che appunto lei è noto soprattutto per i suoi romanzi gialli, o romanzi con delitto, e allora il suo pubblico potrebbe anche sentirsi spiazzato da un romanzo così diverso come Nessuno rivede Itaca, anche se in realtà abbiamo detto che lei è scrittore poliedrico, quindi in lei esistono diverse anime. Sì, esistono diverse anime e anche i romanzi con delitto richiedono un lettore consapevole, anzi vorrei quasi forzare in un paradosso. Mentre i romanzi di Melis o di Vukcic richiedono un lettore più colto, più consapevole quasi dell'autore che scrive, secondo me Nessuno rivede Itaca ha bisogno di un lettore il cui sguardo sia sempre capace di incanto. Ecco, questo secondo me è il lettore adatto per questo romanzo che io amo definire la mia quinta del sordo. E quindi, come le pitture di Goya alla quinta del sordo, è apparentemente complesso ma estremamente essenziale in quello che vuole comunicare. Ecco, c'è da dire che questo è un romanzo, appunto, come dicevo prima, anche pieno di riferimenti culturali, all'arte pittorica, alla musica e così via. Quindi in questa sorta di lettore ideale che lei immagina può servire anche come stimolo per approfondire magari anche altri elementi, o è qualcosa che non le interessa nello specifico fare con questo romanzo? Ma io credo che sia utile sempre stimolare chi legge. Io sono grato agli autori che stimolano la mia curiosità verso campi che conosco meno o mi fanno scoprire nuovi punti di vista. Non so se qui io ne sia stato capace. Però ecco, tutto il disquisire fra come tradurre la musica in letteratura o la letteratura in musica da parte dei colloqui fra Tommaso e Massimo, non è solo un'analisi della totalità dell'espressione artistica, per usare un'espressione crociana, dove l'apparente immediatezza e universalità di musica e pittura si contrappongono alla letteratura che ha bisogno sempre di una traduzione. È un discorso più totalizzante. L'arte è magia. Ogni arte ha un suo linguaggio e ogni linguaggio, come un sortilegio, dà forma a qualcosa. Però ecco, come ho già avuto modo di dire, l'arte non è verosimile. L'arte è vera. Pensi ad esempio ai colloqui. I colloqui fra i personaggi letterari sono assolutamente inverosimili, ma sono veri. Carlo, principe del Galles, non parla come il principe di Homburg. Filippo VI, re di Spagna, non parla come re Lear. Però re Lear e il principe di Homburg sono molto più veri di loro. Allora vale un po' quello che il letterato Francisco de Quevedo diceva a proposito della pittura del suo amico Velázquez. Non è verosimile, ma è vera. quelle sue macchie di colore sono verità, non sono somiglianza. Ecco, secondo me la vera arte deve comunicare una verità in modo assolutamente e dichiaratamente estraneo a quella che noi consideriamo la verità quotidiana. Ecco, c'è una tendenza negli ultimi anni a preferire da parte di alcuni lettori le cosiddette storie vere, cioè se compare la fascetta tratto da una storia vera appassiona di più. Allora, secondo lei, è più vero un romanzo che parla di una storia inventata rispetto a un romanzo tratto da una storia vera? Indubbiamente, quando noi vediamo al cinema basato su una storia vera, sappiamo benissimo che di quella storia vera resta ben poco, resta la trama, al massimo. Ora, la trama è una cosa importante in letteratura, ma non così importante come potremmo credere, perché la letteratura non è mai spontanea. Il detto è regolato dal non detto e la nostra vita non è un romanzo, ma lo può diventare, allora però non è più nostra. Una donna di provincia scontenta, sposata con un uomo che l'ha sposata in seconde nozze, lo tradisce e si suicida. Allora, trarre una storia vera da questo grigiore sembra impossibile, però Flaubert lo fa. E noi parliamo ancora di Emma Bovary, ma non è esattamente la stessa cosa che dire traggo un libro da una storia vera e ripercorro tutte le tracce di quella storia. Perché ha ragione Ugo Foscolo, la letteratura è calore di fiamma lontana. Non si scrive con le lacrime, ma nel ricordo delle lacrime. Quelle lacrime magari le abbiamo versate sul serio, ma scriviamo quando ormai sono un ricordo, perché abbiamo superato la fase del coinvolgimento cieco. Ripensiamo un'esperienza e solo ripensando un'esperienza siamo in grado di comunicarla ad altri. Ecco, venendo a qualche elemento insomma di trama del romanzo, Massimo è omosessuale, racconta in questo lungo scritto dedicato appunto all'amico Tommaso anche il momento in cui da bambino in una vacanza nel 1942 a Cortina, quindi era anche l'epoca della guerra, lui aveva 6-7 anni, lì ha la consapevolezza di essere, capisce già di essere diverso, lui dice. E lei scrive: avrei potuto vivere liberamente solo se avessi celato a chi mi voleva bene, ai potenti, e allora le due figure in buona parte coincidevano, questo mio marchio. E poi ribadisce il concetto che libertà vuole silenzio e ombra, la mia diversità vuole silenzio e ombra. Ecco, l'omosessualità di Massimo però viene vissuta dal personaggio in maniera assolutamente naturale, non viene problematizzata. Sì, infatti che sia omosessuale è puramente per certi aspetti secondario. A me interessava un personaggio che facesse parte di una minoranza, una di quelle minoranze che nel mondo possono improvvisamente essere oggetto di persecuzione. Nell'Italia del 1936, anno di nascita di Massimo, le possibilità erano solo due. Ma se ne avessi scelta una, quella di farlo ebreo o in subordine zingaro, tutta la sua vita sarebbe cambiata. Quindi l'unica minoranza perfettamente borghese, invisibile ed inserita era quella dell'omosessuale. Poi di lui Tommaso dice la sua era bromance, non era, cioè lui si sentiva inadeguato ad essere adatto a una donna, tutto qua. Per il resto, certo, è l'individualità, è una questione di individualità di minoranza. È la stessa che ha fatto dire a Saba, in una lettera a Federico Almansi, la poesia, come tu ben sai, è un'infrazione alle norme, è asociale e vive nel proibito. Il problema è proprio questo. L'individuo, e Massimo è la rappresentazione di questa contraddizione, l'individuo tanto più è individuo quanto meno accetta certi aspetti di una società di massa, senza negare ovviamente tutti i beni che il progresso comporta. Ecco, in questo confronto a distanza, diciamo, fra Massimo e Tommaso, si dibatte anche molto di musica, se non altro perché Tommaso appunto è un musicista. A un certo punto Massimo, in questo dialogo virtuale, dice: voi siete sterili perché volete credervi seri, perché ritenete che la musica nasca da uno sforzo del pensiero. Hai mai provato a improvvisare? Ecco, fra loro due c'è dunque anche una sorta di scontro generazionale nel modo di concepire la musica, la letteratura e così via? Sì, tanto più che Tommaso è un musicista classico e mai come in questi ultimi decenni la musica classica intesa come fenomeno creativo si trova a dover fare i conti con i minuti di silenzio di Cage. E quindi da un lato c'è l'invidia del letterato, e questa è tutta mia anche. Preciso che nel libro di autobiografico non c'è nulla, ma di mio c'è tutto, insomma. L'invidia del letterato verso il musicista. La musica è un balsamo, la musica è un linguaggio universale, la musica è magia. Però un certo tipo di musicisti si condanna alla sterilità per troppa cerebralità. Del resto non è un caso se noi, dovendo fare una colonna sonora della nostra vita, mettiamo insieme canzonette e Mozart. La musica non ha alto e basso. Stravinsky, per definire la musica classica, forse non era Stravinsky ma Bernstein, comunque uno dei due, per definire la musica classica usava il termine musica esatta. È molto significativo questo ed è molto giusto, perché anche le canzonette possono farci piangere, come diceva appunto Flaubert. Grazie ad Hans Tuzzi, ora in libreria con Nessuno rivede Itaca, pubblicato da Bollati Boringhieri. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltare in podcast queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Siamo presenti sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.